dai capelli. Giorno, lampi, respirare tra le dita, fuoco che taglia, fantocci di sabbia. C'era, sento dentro, sento fuori, che grida la gente è aria. Vedrò, lo so, 100.000 altre vendette del sangue. Dio che giocava con il cielo, dimenticando l'aria.